Sometimes I get a good feeling, yeah. Yeah. Il coordinamento lesbiche romane presenta I get a feeling that I never, never, never, never had before, no, no. È una calamità di cui ci rendiamo perfettamente conto. I just wanna tell you right now that Trasmissione autogestita sugli 87 e 900 di Radio Onda Rossa. Allora, buonasera, ci siamo già presentate prima con l'agenda, l'Ariopinta che le compagne dell'MFL hanno fatto. E quindi ci ripresentiamo di nuovo, siamo sempre noi CLR, Coordinamento Lesbiche Romane, con la calamità, la prima trasmissione, diciamo, e in studio a questo punto, come avrete sentito, ci sono io, Lucilla, Rosina, e abbiamo una tecnica d'eccezione, la diciamo insieme, 1, 2, 3, Nancy. Ciao a tutte, buonasera a tutti, è un piacere stare qui. Anche lei l'abbiamo già sentita prima, è una rivisitazione. Sì. Allora, intanto, buonasera a tutte, bentornate voi, bentornate noi, e questa è la 288esima trasmissione del coordinamento lesbiche romane e di una calamità di cui ci rendiamo perfettamente conto. E detta così sembra una condanna, però. Vabbè, 288. 288. Allora, questa trasmissione segna la ripresa. Come sapete, noi ogni 15 giorni siamo in onda. E voi come state? Avete fatto buone vacanze? Oppure non lo so. Avete fatto cattive vacanze? Speriamo di no. Allora, noi stiamo benino, con i tempi che corrono, con l'età che avanza, con gli acciacchi, col peso che aumenta, con gli acciacchi di Rosina e abbiamo detto tutto. Bene. Allora, stasera vi faremo ascoltare alcuni pezzi dallo spettacolo teatrale Der Puff, Frammenti cantati di corpi internati. Questa pièce teatrale che noi abbiamo visto a gennaio del 2013, eravamo proprio questo terzetto e poco più, e l'abbiamo vista qui a Roma in un teatrino del centro, ma ci colpì molto. Ci piacque molto e l'abbiamo voluta fortemente all'interno della Casa Internazionale delle Donne di Roma. Perché l'abbiamo voluta? Poi sentirete la presentazione, perché manderemo in onda dei pezzi registrati, e quindi sentirete la presentazione che proprio la nostra Nenzini farà. E l'abbiamo voluta fortemente perché parla di Ravensbrück, del campo di concentramento vicino a 80 km da Berlino, che fu il campo femminile e di cui non si parla. Gli altri campi sono noti, ma Ravensbrück non è così noto, e invece lì sono passate molte donne sono entrate e non sono più uscite da Ravensbrück. Il simbolo di Ravensbrück è la rosa, lì c'erano le rose, cioè le donne che comunque sono andate a morire. Allora, Francesca Falchi, che noi abbiamo intervistato, è stata nostra ospite radiofonica e con la quale abbiamo veramente avuto una collaborazione straordinaria, ha scritto questo pezzo teatrale proprio per onorare la memoria delle lesbiche morte a Ravensbrück. Perché, come sapete, come già abbiamo detto in altre occasioni, in altre trasmissioni, le lesbiche in Germania non era un reato essere lesbiche, mentre c'era il famigerato articolo 167 contro 175 167 è un quartiere, scusate, mi sono solo sbagliata, 175 che colpiva l'omosessualità maschile, ma le donne si potevano sempre rieducare e noi abbiamo sempre detto leggi stuprare. Allora, intanto lo spettacolo è stato interessante, noi vi riproponiamo alcuni pezzi. La cosa carina è che è stato fatto sotto forma di cabaret, e poi sentirete anche altro dalla viva voce di Nancy, dopo lo sentirete. Ok, per il momento vi diciamo che oltre a questo, poi faremo, oltre a questi pezzi, leggeremo alcune parti, alcune piccole, abbiamo estratto alcune piccole parti dal libro Aimé Jaguar, più noto come film che non come libro, ma esiste il libro da cui è stato tratto il film, e noi abbiamo ancora una volta voluto rendere la memoria di un amore forse anche controverso, ma comunque un amore nella Germania nazista, e poi sentirete dalla viva voce di Rosina alcune informazioni su questo aspetto. Vabbè, sembra che si sia preparata, poi non lo so. Quindi vi diciamo buon ascolto, e intanto chiediamo a Nancy di mettere un pezzo musicale che noi amiamo molto, che è la canzone Viola, tradotta in italiano, ma è The Lavender Song, ed è dalla voce di Ute Lemper. What makes them think they have the right to say what God considers vice? What makes them think they have the right to keep us out of paradise? They make our lives hell here on earth, poisoning us with guilt and shame. If we resist, prison awaits, so our love does not speak its name. The crime is when love must hide. From now on we'll love with pride. We're not afraid to be queer and different. If that means hell, well, hell will take the chance. They are so straight, uptight, upright and rigid. They march in lockstep, we prefer to dance. We see a world of romance and of pleasure. Can see is sheer banality. Lavender nights, our greatest treasure, where we can be just who we want to be. Round us all up, send us away. That's what you'd really like to do. But we are too strong, proud, unafraid. In fact, we almost pity you. You act from fear, why should that be? What is it that you're frightened of? The way that we dress, the way that we meet, the fact that you cannot destroy our love. We're going to win our rights to lavender days and nights. We're not afraid to be queer and different. If that means hell, well, hell will take the chance. They're all so straight, uptight, upright and rigid. They march in lockstep, we prefer to dance. We see a world of romance and of pleasure. All they can see is sheer banality. Lavender nights, our greatest treasure, where we can be just who we want to be. Lavender nights, our greatest treasure, where we can be just who we want to be. Allora, prima di mandare le parti registrate che abbiamo scelto, volevamo dire proprio due brevissime cose su Der Puff. Allora, intanto, se vi capiterà l'occasione, se lo verrà ridato a Roma o in zone limitrofe, noi vi consigliamo di vederlo. Perché intanto viene fuori dalla tradizione del cabaret, ed è del cabaret tedesco, e del cabaret tedesco degli anni 20, 30 e 40, e parla però di fatti così importanti ma così dolorosi in un tono leggero. Ora sembra quasi una contraddizione in termini, però è così. La prima volta che l'abbiamo visto, la sensazione che ho provato personalmente, che poi ho condiviso con le donne che erano a vederlo con me, è stata una sensazione di leggerezza. Uscire dopo aver visto il pezzo teatrale e tornarsene a casa con dentro un senso di leggerezza e di rabbia reattiva. Non mi sentivo più colpita in quanto donna, in quanto lesbica e quindi annullata nell'essere colpita, bensì mi sentivo e avevo voglia di reagire e di lottare contro tutto quello che tende a cancellarci. E quindi questo mi fanno segno dalla regia, anzi da Rosina, che mi fa segno di tagliare, e quindi tagliamo. Sentite il primo pezzo. Nuovamente, grazie per essere venute qui. Io mi ero ripromessa di non usare questo foglio per dare una piccola presentazione, ma sono abbastanza emozionata, come anche le mie compagne, per questo evento, quindi mi perdonerete se avrò questo foglio in mano un po' a rassicurarmi, no, per questa cosa. Allora, questo che andiamo a presentare è uno spettacolo che abbiamo voluto fortemente le compagne del Kesbilè e del CLR, e volevamo condividere con voi questo, appunto, questo spettacolo che ci sembra veramente essere notevole, bello. Come sicuramente avrete letto, questo spettacolo parla delle vite di tante donne, di tante lesbiche rinchiuse nei campi di concentramento. Cito uno fra tutti, essendo appunto il campo di concentramento femminile, quello di Ravensbrück, e si parla di queste donne, di queste lesbiche che sono state, di cui la vita è stata assolutamente cancellata, negata e dimenticata. E io credo e penso che anche voi possiate essere, insomma, d'accordo con me, che non c'è niente di peggio che essere cancellate e negate nella propria esistenza. Francesca Falchi con questo testo recupera queste voci di donne dimenticate e le fa uscire da quello che è una doppia cancellazione che un po' purtroppo noi dobbiamo subire in quanto donne e in quanto lesbiche, e quindi ci dà la possibilità di uscire fuori da questa cancellazione, da questo silenzio. Recupera quella che è una memoria perduta, volutamente perduta sicuramente. Una memoria che comunque c'è, che comunque è sotterranea e che noi crediamo un po', no, attraverso un bellissimo filo viola ci lega lesbiche di adesso, lesbiche del passato e forse anche le lesbiche del futuro, non lo sappiamo, ma c'è questo filo che ci lega e ci dovrebbe dare anche la forza, pensiamo. Come spesso accade, la storia dà voce a i testimoni, quindi come sempre si declina, no, a un maschile neutrale. Grazie a Francesca stavolta noi saremo le testimoni, e questo è una gran cosa, ed è una cosa che ci dà veramente una gran forza, e per questo ringraziamo Francesca e la sua compagna artistica, in questo caso Marta, per questo lavoro che ci ha dato. Due parole e poi vi lascio a questo splendido spettacolo. Allora, questo lavoro possiamo dirlo, l'abbiamo definito tra noi compagne un lavoro che ha due anime, che ha due teste distinte, ma che probabilmente poi si intrecciano, che una è quella appunto terribile e tragica dei campi di concentramento, e l'altra invece è quella un po' più riverente e sarcastica, e se dico questo poi ve ne accorgerete durante lo spettacolo ha un senso. Si rifà un po' a quello che è stato il grande cabaret tedesco, che ha avuto come massima esponente Erika Mann, che è stata un'attrice e scrittrice, un'attivista politica lesbica, e che ha portato questa sua scelta di vita in ogni cosa che ha fatto. Raccontare la vita delle lesbiche nei campi di concentramento significa un po' stare, in questo caso, un po' in bilico tra due mondi, e forse potremmo anche dire tra due follie, quella che è il mondo della storia e quello che è invece il mondo dell'arte, e comunque tutto ciò si mescola creando veramente delle emozioni fortissime e variegate. Francesca Falchi e Marta Proietti Orzella, che è appunto la compagna di viaggio di questo spettacolo, riescono comunque, a parere nostro, e siamo sicuri anche a parere vostro alla fine di questo spettacolo, a dare a questo lavoro quella delicatezza, quel rispetto e anche forse, no, quel pizzico di follia che comunque questo lavoro richiede. Io mi fermo qui, vi lascio e ci lasciamo ad ascoltare, a guardare e comunque, nonostante tutto, anche a divertirci. Grazie e buona serata. Paragrafo 129, primo bis. Ricordi, Eva? Ricordo, Thea. Sono passibili di pena gli atti osceni contro natura, animali, persone dello stesso sesso, femmine copulatrici, Austria e Germania, sesso territoriale dello sterminio. Un amore persecutorio, quel loro concentramento concentrato di corpi interdetti, castrati, evaporati. Quella polvere umana, la sento nell'aria, Eva. Ancora. Ma non la sua. Non la sua. Lilly. Lilly. E le sue mani parlavano colorando l'aria. Prigione salvifica a quelle mura eversive che la celavano al mondo in dissoluzione animale. Il suo profumo di terrore e di innocenza invadeva l'aria. Avevo paura si aprisse un varco sottile fra gli infissi deboli e capissero che era nascosta là fra le mie cose, i miei affetti, i miei amori. Ma non è mai successo. Era nascosta fra me e te, ti ricordi? Sì. I teatri chiusi, la fabbrica di camicie e te. E quegli abiti? Te li ricordi quegli abiti? Erano bellissimi i suoi abiti. Lilly Wolf. Poi è partita in America con quella coppia di amiche di colonia, quelle che per un po' abitarono da noi. Sì, perché non l'abbiamo mai detto a nessuno? Voglio dire, abbiamo fatto solo il nostro dovere di esseri umani. Thea. Sì. Sono amputata senza di te. La migliore amica, con la migliore amica, per fare qualche spesa, per lasciarsi andare, per strada camminare e poi spettegolare, dice la migliore amica alla migliore amica, mia migliore amica, oh mia migliore amica, oh mia bella amica, oh mia fedele amica, oh mia dolce amica, va la migliore amica, con la migliore amica, dice la migliore amica, alla migliore amica, mia migliore amica. Che cosa mi racconta oggi la mia amica del cuore? Che cosa le passa per la testa? Insomma, che dirti? Come ci intendiamo bene noi due? Ci intendiamo così terribilmente bene noi due? Ah sì? Che cosa non farei se non avessi te? Non lo so, ci intendiamo anche troppo bene noi due. Ah, c'è solo una persona con cui mi intendo altrettanto bene. Ah sì? Eh sì, il mio dolce bel maritino. Ah. Sì, mio marito è un vero uomo, è un vero uomo. Sì, mio marito. marito di una signora. L'amico di famiglia ora non c'è più, l'amica di famiglia ti dà qualcosa in più. Certo che tuo maritino è un po' pesante. Trovi? Sì. Come mai? No, così mi pare. Perché ti pare? E come, perché mi pare, dai. Sì, perché ti pare? No, ma fa certe cose, dai. Eh no, questo però non mi va bene. Ma dai, baciamoci, trucchiamoci. Va bene, amore, trucchiamoci. L'amico di famiglia ora non c'è più, l'amica di famiglia ti dà qualcosa in più. Quando la migliore amica con la migliore amica dice la migliore amica alla migliore amica, mia migliore amica. Allora, il pezzo che avete sentito, la mia migliore amica, è stato tradotto da Francesca Falchi, ma è una canzone che cantava Marlene Dietrich e Margot Lyon, e che è Wenn die beste Freundin, cioè la mia migliore amica. E infatti anche in questo dobbiamo dire che Francesca Falchi ha saputo fare delle traduzioni delle canzoni d'epoca, restituendocele nel loro insieme in maniera abbastanza, cioè, molto carina, ecco. Allora, il pezzo che andrà adesso invece è un po' più duro ed è le lesbiche che hanno che sono passate all'interno del campo di concentramento di Ravensbrück e che purtroppo non ne sono più uscite. Ed è un fatto appunto di memoria storica e di resa giustizia a donne che peraltro hanno combattuto, sono state anche antinaziste e hanno lasciato una traccia, nonostante tutto, delle loro vite. E poi sentiremo dopo questo pezzo invece la canzone Viola che abbiamo sentito all'inizio, però nel testo tradotto sempre da Francesca Falchi e cantata insieme a Marta Proietti Orsella. Annie Sherman, commessa, arrestata a Francoforte nel 1940. Lesbica compulsiva. Frequenta soltanto questo genere di bar e di club. Non usa il suo nome Sara. Ebrea apolide. Deportata a Ravensbrück. Gasata a Bernburg. Le lesbiche e gli aspetti positivi del nazismo. Lavoriamo nell'industria bellica e nel sistema militare. Perciò godiamo di un nostro reddito e siamo indipendenti. Possiamo indossare i pantaloni lunghi. Eh sì, dobbiamo strisciare per entrare e uscire dai buchi dei rifugi antiaereo. Ci sono pochi uomini in giro e possiamo flirtare tra di noi. Ci aiutiamo l'una con l'altra. E questo crea una gradevole atmosfera di matriarcato femminile. Mary Punger, internata a Ravensbrück nel 1940. Lesbica molto attiva. Frequenta incessantemente i club lesbici dove si mette in mostra con le sue congeneri. Gasata all'inizio del 1942. Ellie Smula, arresto politico, lesbica. Margarete Rosenberg, arresto politico, lesbica, gassata. 1940. Schiavi, del pregiudizio, affermano che il nostro amore è un vizio. Prelati ignoranti con un sorriso ci negano l'ingresso in paradiso. Spargiamo il peccato noi sulla terra, è nostra colpa se il mondo è in guerra. Alla forca o prigione noi avremo ragione e il mondo di sicuro cambierà. Criminale colui che odierà, peccatore chi giudicherà. Siamo orgogliosi di essere diverse, se andremo all'inferno anche lì festeggeremo. Menzogne e ipocrisia per loro sono un vanto, noi vogliamo la luce della verità. Chi può impedir dell'uguaglianza il canto? Anche il nostro amare è divino santità. In questa notte viola sì noi trionferemo, perché noi crediamo nell'umanità. Lo Stato inetto in silenzio acconsente ad una violenza di corpo e di mente. La legge tutela chi commette reato, ma non tu che vivi nel peccato. Volete sposarvi, ma state scherzando. Avere dei figli, ma siamo allo sbando. Il matrimonio reale non è omosessuale, così è sempre stato e così sarà. Né Stato né Chiesa cederà, l'amore perverso sparirà. Siamo orgogliosi di essere diverse, se andremo all'inferno anche lì festeggeremo. Menzogne e ipocrisia per loro sono un vanto, noi vogliamo la luce della verità. Chi può impedir dell'uguaglianza il canto? Anche il nostro amare è divino santità. In questa notte viola sì noi trionferemo, perché noi crediamo nell'umanità. In questa notte viola sì noi trionferemo, perché noi crediamo nell'umanità. E rieccoci qui, naturalmente questa era una rivisitazione della canzone Viola, appunto scritta da Francesca Falchi per il suo spettacolo. Vi ricordiamo, appunto, stiamo parlando di Der Puff, e naturalmente nel ricordarvi questo vi ricordiamo anche che siete all'ascolto di È una calamità, di cui ci rendiamo perfettamente conto che è appunto la trasmissione a cura del coordinamento Lesbiche Romane, nell'ambito, come ben sapete, del martedì femminista e lesbico autogestito sugli 87-900 di Onda Rossa. E come al solito vi ricordiamo che ci potete ascoltare in diretta attraverso il sito della radio www.ondarossa.it oppure tramite il sito ufficiale del CLR www.clrbp.it. In entrambi i casi dovete soltanto cliccare sull'icona in diretta. Per mettervi in contatto con noi potete farlo fino alle 22 qui in radio allo 06 49 17 50. Ci potete mandare un sms al numero 339 85 36 270. Ci potete anche inviare una mail a contatti@clrbp.it oppure potete visitare la pagina Facebook CLR. Direi che a questo punto tutte le informazioni di servizio sono state date e quindi possiamo proseguire con la nostra trasmissione. Abbiamo, come Lucilla ha anticipato in apertura di trasmissione, abbiamo scelto questa sera per proseguire il nostro discorso sull'argomento ottimamente trattato da Francesca Falchi nel suo spettacolo, di leggere alcuni estratti dal libro di Erika Fischer intitolato Aimé Jaguar, storia di un amore doppiamente proibito, che è uscito nel 1994. La storia è nota forse appunto più per il film che non per il libro, ma appunto il film è stato tratto da questo libro. È la storia di due donne, Lili Wust, che è una casalinga tedesca, sposata con un ufficiale dell'esercito tedesco, nazista, madre di quattro figli, che appunto ha una vita molto conformista, vive appunto in una Berlino devastata dalla guerra, e a un certo punto conosce questa giovane ragazza, giovane più di lei, di 21 anni, Felice, che le porta praticamente un turbine nella sua vita, e tra le due nasce un'amicizia che appunto si trasforma molto, molto presto in una passione e in un amore molto profondo. Si danno un soprannome, si chiamano Aimé e Jaguar, da qui il titolo del libro. Una delle due, Felice, è ebrea, e questo è, come dire, una cosa molto grave in quel periodo, no, quindi abbiamo, come dire, appunto un doppio problema, una doppia gravità: l'essere lesbiche, quindi stare in una relazione non legale, e appunto avere una donna lesbica all'interno di questa relazione. E questo libro appunto narra la storia d'amore fra queste due donne, una storia d'amore molto bella, molto intensa, molto, molto passionale. Tra l'altro è documentata da una serie di scritti lasciati nel diario appunto di Lili Wust, ma anche da una serie di lettere, di documenti, di poesie scritte invece da Felice Jaguar. E una storia d'amore anche per certi versi contrastata in qualche modo dalle amicizie di Felice, perché in qualche modo le donne che orbitavano appunto a Felice non hanno mai perdonato a Lili, all'amante di Felice, di essere stata in qualche modo una fiancheggiatrice del nazista. Il successo di questo libro però è dovuto al fatto che appunto vi si narra una storia d'amore, quindi in qualche modo, siccome le lesbiche hanno sempre necessità di trovare dei modelli di eroine lesbiche appunto che abbiano anche una qualche continuità con la storia della loro vita, della propria vita, e ne fa un libro molto, molto importante. E il fatto che una delle due protagoniste sia stata uccisa, cioè Felice in quanto ebrea e non in quanto lesbica, e che l'altra, seppur in pieno Terzo Reich, non è stata in nessun modo perseguitata per il suo amore nei confronti di una donna che era decisamente fuori dagli schemi, è una cosa piuttosto strana per quel periodo, per quell'epoca lì, però andò proprio così. Adesso Lucilla ci leggerà una piccola parte del diario di Lili Wust, che appunto aveva cominciato una convivenza a lungo termine con Felice, anche diciamo vincendo le paure che si potevano provare in un momento incerto come quello. Vi ricordiamo appunto, c'era la guerra, lei aveva quattro figli, una situazione clandestina, aveva un'ebrea in casa, però era molto innamorata di Felice. Felice, ti prego, non sbagliare come faceva mio marito. Quando per qualche motivo sono nervosa o arrabbiata, non prendermi di petto, non dire nulla. E dopo, cerca di essere molto carina con me. Non sono molto comprensiva, ma lasciami fare, passerà in un baleno. Quando è che saremo finalmente sole? Penso che in futuro sarà ancora peggio, i nostri cari amici. Speriamo in tempi migliori. E poi c'è sempre il rovescio della medaglia. Chissà quanto tempo avremo ancora per stare da sole. Di un po', mi viene in mente una cosa fantastica. Che ne pensi di un contratto di matrimonio? Per parte mia potrebbe essere: prometto di amarti e di esserti fedele sempre. Al momento sono così infinitamente... Ah, non è vero. Non sono scoraggiata, neppure avvilita, ma infinitamente triste. Non promettermi mai qualcosa che non puoi mantenere, mai. Voglio credere con tutte le mie forze che non mi lascerai mai. D'altronde non si lascia una donna come me. la cosa migliore per noi sarebbe davvero quella di andarcene per il mondo e costruirci un futuro diverso. A pensarci, mi viene male per la tua gioventù che tu debba farti carico di una così vecchia signora, ma lo farai, vero? E volentieri? Per me, sai, vorrei avere qualcosa di tuo, per essere sicura che mi appartieni. Anelli, purtroppo non ne possiamo portare. Non so neanch'io cosa, ma qualcosa ci deve essere. Felice, mia adorata fanciulla, pensavo proprio ai tuoi occhi. Felice, io ti amo. Più stiamo insieme, più il mio amore cresce. Tra l'altro, voglio fare un elenco delle cose da tenere. Fidati, la casa verrà carina. Riuscirai a procurarmi anche un divano? I miei pensieri per il futuro non sono invece così rosei. Non è certo paura. La mia decisione è matura ormai. Matura. Voglio vivere con te e essere felice. Strappami dal solito tran tran. Non fa per me. Preferisco vivere un grande dolore e per questo andare in pezzi piuttosto che una piccola, insignificante felicità tutta intera. Felice. Non ho mai amato una persona a dispetto di tutto e di tutti come mi succede con te. Non lasciarmi sola. Il 26 giugno 1943, Aimé scrive con l'inchiostro verde di Felice la sua parte del contratto matrimoniale. Ti amerò senza limiti, ti sarò assolutamente fedele, terrò tutto in ordine e pulito, sarò sollecita verso di te, verso i bambini e verso di me. Quando serve saprò risparmiare, sarò generosa in tutto e avrò fiducia in te. Quello che è mio deve essere anche tuo, sarò sempre qui per te. Firmato Elisabeth Wust, nata Kappler. E tu? Chiede scrivendo sul retro della cartolina militare. Il 29 giugno, su un doppio foglio di carta da lettere, Felice raccoglie così la sfida. In nome di tutti gli dei competenti, di tutti i santi e delle loro mascotte, dichiaro di volermi attenere ai 10 punti seguenti e spero che tutti questi dei competenti, santi e mascotte saranno magnanimi e mi aiuteranno a mantenere la parola data. 1. Ti amerò sempre. 2. Non ti lascerò mai sola. 3. Farò di tutto per renderti felice. 4. Baderò a te e ai bambini, per quanto consentito dalle circostanze. 5. Non protesterò se tu baderai a me. 6. Non guarderò più le belle ragazze, se non per constatare che tu sei la più bella. Cercherò di rincasare tardi la sera il meno possibile. 8. Cercherò di non fare rumore di notte digrignando i denti. 9. Ti amerò sempre. 10. Ti amerò sempre. Fino a nuovo ordine. Felice. Wenn die beste Freundin mit der besten Freundin um Parteien zu kaufen, um Parteien zu kaufen und sich auszulaufen durch die Straßen latschen und sich auszuquatschen spricht die beste Freundin zu der besten Freundin meine beste Freundin oh, meine beste Freundin oh, meine schöne Freundin oh, meine treue Freundin oh, meine süße Freundin ist die beste Freundin mit der besten Freundin spricht die beste Freundin zu der besten Freundin meine beste Freundin Ja, was sagt denn da die beste Freundin? Sag doch mal was zu mir, was dir so gerade einfällt. Ich kann dir nur eins sagen, wenn ich dich nicht hätte. Wir vertragen uns beide so gut. Ja, wir vertragen uns so furchtbar gut. Dass wir uns beide gut zusammen vertrauen. Es ist kaum noch anzuhalten, wie gut wir uns beide vertragen. Nur mit einem vertrage ich mich noch so gut. Mit meinem süßen kleinen Mann. Ja, mit einem süßen kleinen Mann. Ja, mein Mann. Ist ein Mann. So ein Mann. Wie mein Mann, wie der Mann von der Frau, wie der Mann von der Frau. Früher gab's den Hausfreund, doch der schwand dahin. Heute scheint der Hausfreund, gibt die Hausfreundin. Dein kleiner Mann ist aber auch so. So? Ja. Warum? Ich finde. Wieso? Warum? Wieso finden Sie das? Das passt mir aber nicht. Nanu. Nanu? Du hast mich mit ihr betrogen. Weil du mich mit ihr betrogen. Und du hast mich mit ihr betrogen. Weil du mich mit ihm betrügst. Was sind denn das für verwickelte Familienverhältnisse? Wollen wir uns nicht lieber vertragen? Ja, wir wollen uns lieber vertragen. Die dumme, dumme Liebe. Mit der besten Freundin. Und was ein zu kaufen, und was ein zu kaufen, und was auch zu laufen. Durch die schwarzen Latschen. Und sich auch zu quatschen. Bricht die beste Freundin zu der besten Freundin. Meine beste Freundin. Meine beste Freundin. Oh, meine schöne Freundin. Oh, meine treue Freundin. Oh, meine süße Freundin, ist die beste Freundin. Was, du bist mit der besten Freundin. Was, du bist die beste Freundin, du der besten Freundin, meine beste Freundin. Allora, quella che avete ascoltato è Wenn die beste Freundin, cantata da Marlene Dietrich e Margot Leon. Questa prima l'avevamo ascoltata nella versione tradotta da Francesca Falchi, e ci è piaciuto fare il confronto, no? Quindi è stato molto carino. Proseguiamo con la lettura, sempre da Aimé Jaguar, di un ultimo stralcio. Dal diario di Lily, 9 dicembre 1945. Devo continuare a credere che tu sia viva e che un giorno, forse molto presto, Dio onnipotente e misericordioso sarà davanti alla mia porta e non dirai altro che Aimé. Allora mi getterò tra le tue braccia, piangendo le ultime lacrime che mi sono rimaste. Voglio farti dimenticare tutto il passato e darti il meglio che ho, tutta la mia vita fino alla morte. Felice, piccolo amore mio, vieni tra le mie braccia. Vorrei tanto baciarti, vorrei sentire la tua morbida bocca sulla mia. Che ricordo la tua bocca. Ho sentito che tutto un mondo si capovolgeva e il sangue, ribollendo, fluiva per tutto il corpo. Ti ricordi? Senza volerlo ho bevuto le tue lacrime, non più padrona dei miei sensi. Ogni coscienza si era spenta nell'ardore del mio cuore e io ero persa in te, come morta nel vortice delle emozioni, bocca a bocca, per sempre. E godevo di questi baci selvaggi ed ero un tutt'uno con te. I nostri corpi premevano l'uno contro l'altro, resi potenti dalla comune volontà. Le tue mani, avide, scivolavano sul mio corpo, accarezzavano i miei seni, il mio ventre, e poi mi hai preso e io ho preso te. Per la prima volta della mia vita ho dato e non soltanto preso, esigevo qualcosa. Con quanto calore ho amato il tuo corpo, quanto l'ho amato, lo toccavo con le mie mani e tu ti stringevi forte a me, ti sei data a me, prima tesa e dura e poi sciolta, libera, hai ceduto gemendo, turbata. Poi ti ho baciato pazzamente, dimentica di ogni ragione terrena, Tutto scorreva dentro e fuori di noi, rumoreggiava nel vortice dell'istante. In quei momenti avrei potuto ucciderti. Ho urlato forte, vicino alla follia, come te, senza requie, fino all'esaurimento totale, senza pensieri. Eravamo una cosa sola, compimento del nostro amore. Ucciderti nel vero senso della parola. Quanto ci siamo amate. Dio mio, uso già il passato. Con queste belle parole di Lili Wust, che purtroppo Felice non poté mai leggere perché appunto era già morta quando Lili scrisse quest'ultima pagina del suo diario, il Coordinamento Lesbiche Romane vi saluta, vi ringrazia per essere stati in ascolto. Ringraziamo Nancy per la sua perizia. Grazie per tecnica. Avermi invitata. Tesoro, non sarà l'ultima volta. Sono sempre molto onorata. Ringraziamo da lontano Francesca Falchi per il suo lavoro, ringraziamo Marta per essere stata appunto la sua compagna di viaggio. E noi vi salutiamo e ci ritroveremo qui tra 15 giorni. Tra 15 giorni. Puntuali. Nel frattempo, godetevi la sigla finale. Sometimes I get a good feeling, yeah, yeah. I get a feeling that I never, never, never, never had before, no, no, yeah. Avete ascoltato? È una calamità di cui ci rendiamo perfettamente conto, a cura del Coordinamento Lesbiche Romane sugli 87 e 900 di Radio Onda Rossa. I really do believe that something's got a hold on me.